salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi. La benedizione di Allah, dei suoi angeli, dei suoi profeti, wa rusulihi wa hamilati arshihi wa jami'i khalkihi, dei suoi apostoli, degli angeli che portano il trono di lui, di tutto ciò che Allah creò, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabih, abbiano come destinatari Muhammad, la nostra guida, la famiglia di lui e i suoi compagni. Alayhi wa alayhi musallamu wa rahmatullahi wa barakatuh. E su lui e su loro la pace e la misericordia di Allah e le benedizioni di lui.